passata già. La lotta unita non si è vista mai, ma noi restiamo, noi sì restiamo, noi non ci arrendiamo, noi combattiamo. Noi restiamo, sì restiamo, noi non ci arrendiamo, noi combattiamo. Restiamo uniti, divisi mai, combatteremo e tu non ti arrenderai. Restiamo uniti, divisi mai, la nostra forza è nell'unione, lo vedrai. Vita dura da affrontare nella noia delle tradizioni, vita dura da affrontare, tutti uniti ancora a lottare. Noi non ci arrendiamo, noi combattiamo. Noi restiamo, noi sì restiamo.